No, ah. Dopo ti devo dire una cosa per la moto, aspetta. No! Sai quanta birra mi devi dare? Quella stasera? Di mio papà è... Non sono riuscito a fare un cazzo, però non quella importa. Quella di tuo papà? Il Leonardo è tutto smontato. Tranne la parte che forse devo smontare veramente, la pompa benzina. Ma scusa, hai staccato il tubicino dalla benzina? Ma era sbatti staccarlo direttamente dal carburatore. Lo staccavi dal serbatoio, dalla pompa. Devo smontare tutto il serbatoio e la pompa. E che cazzo hai fatto? L'ho smontato, è un bordello, cazzo. Bisogna andare... Quindi... Looking for distraction, close your eyes and count to three. There's a gun, a rope and a candlestick, so please choose carefully. I've got Dylan on my stereo, I've got women on my mind. There's a fire burning in my heart and a pulse that's racing fast behind. And I said, hey there, you there, look there, oh, how's it going to be? I'd love to know your mind. Maybe I will find the time and put the world to rights. Oh, how much fun that would be. It's the break of dawn on Christmas morn, but the clock reads 3:30. The clock it broke down years ago and just spectates silently. There are lawyers trying to chase me for some money they say I owe. But I'm broke and sure I'm in the clear, so I'll tell them where to go. And I said, hey there, you there, look there, oh, how's it going to be? I'd love to know your mind. Maybe I will find the time and put the world to rights. Oh, how much fun that would be, running round late at night, naked in the candlelight. But that was just a daydream, and you're stubbornly fully clothed. And I change your dress every few days now, so perhaps it's time to go. I think that this year could be different. I can feel it in the air. You know that it's a miracle that I made it here at all. They placed bets I'd die young at school, and I guess I proved them wrong. You might see me in the street and you would never really know, 'cause some things they are best left unsaid and melt with the winter snow. And I said, hey there, you there, look there, well, how's it going to be? I'd love to know your mind. Maybe I will find the time and put the world to rights. Oh, how much fun that would be. Oh, how much fun that would be. Buonasera da Opencast Alpha. Non ci siamo accorti, ma qualcuno registrava. Qualcuno. Vuol dire che ci hanno sentito? Ci hanno sentito, eravamo io e Loris che parlavamo, siamo in tre. No, io veramente ero io. Ah no? C'ero io. Guarda, io sono qui solo perché che mi piace l'Opencast. Devo registrare. Solo che di mi solito piace era un'altra la frase. Mi piace molto. E quindi a proposito di molto, volevo salutare Super Mario. E visto che comunque è un opencast tecnologico, Super Mario lo possiamo anche salutare. Ciao Supi. Volevamo ricordargli se gentilmente quei progetti lì sulle infrastrutture a livello di telecomunicazione possono andare avanti, sarebbe fantastico. Basterebbe anche un discorso di documenti liberi per la pubblica amministrazione, a me basterebbe. Sì, sì. Cioè, beh, già che ci sei, effettivamente. Infatti, oggi in biblioteca, ho appreso con. Con soddisfazione, con gioia. Ho preso con molta gioia oggi, regandomi alla biblioteca, che è stato installato una versione, una distribuzione Linux sui i PC della biblioteca. Yeah. E che sono quelli i PC comuni. Infatti, guardando da lontano, ho riconosciuto una login dell'Ubuntu. Oh mio Dio. Presente la distribuzione Ubuntu. E a proposito della distribuzione Ubuntu, vogliamo ricordare che c'è questa notizia recente che c'è una migrazione in massa degli utenti Ubuntu verso Linux Mint. Non si capisce perché. E qualcuno li ha visti passare, qualcuno come i Lemmings. Qualcuno dice state uniti e quelli finché c'è Unity no. Allora guarda, mi pare che se ne siano accorti anche a DistroWatch. Ma vedremo dopo. M'han detto di sì. Ma vedremo dopo. 800 miliardesima puntata di Opencast. Bravo. Per quelli che ci seguono. Noi siamo qui principalmente per quelli che non ci seguono. Anche perché finalmente Loris è qui e potremo, sì, possiamo dargli il regalo, sì, che ha vinto settimana l'altra. Esattamente, sì. Perché vi ricordiamo che Loris ha partecipato da un po' da bastardo al concorso della settimana l'altra, quello Trova dov'è il gatto. Dici il minuto in cui, esatto, appare il gatto e con le sue 47 mail si è dato la risposta ed ha vinto. Quindi quando vuoi c'è da ritirare il premio. Io non ho capito una, come dire, ecco. Perché tu è un po' che non segui Opencast. Di la verità, hanno mandato le mail a tua insaputa. No, l'ultima puntata l'ho caricata sul lettore, ma c'erano dei problemi di compatibilità col formato OGG. OGG. Perché ho un lettore vecchissimo. Certo. Comunque nello stanzino lì c'è il tuo regalo. Quando vuoi poi... E dopo, meglio dopo. Davvero? Sì. Vabbè, dopo. Meglio dopo, sennò poi dopo soff. Io? È una settimana che è lì dentro. Devi darglielo tutto. Ce n'ho già un altro di regalino così. Che ma infatti, ne manca qualcuno. Infatti, due o tre persone che mancano stasera. Ultimamente? Apri piano. Apro piano. Ti conviene. Comunque, settimana scorsa avevamo parlato anche di che cosa fare alla puntata di questa settimana. E dopo un mega sondaggio, 12.000 risposte, abbiamo deciso di parlare di un programma. Ma sveleremo la decisione soltanto proprio nella seconda metà del nostro fantastico Opencast. Elena non è Vim. Mi spiace. Sì, mi spiace. Ma qui, se però glielo dici subito, lei spegne subito. Secco. Questo, cacchio, l'unica che ci ascoltava. No. Questo nuovo programma di cui parleremo ha a che fare con gli alieni? Sa che John Lennon potrebbe essere ancora vivo? Sì. Che Elvis Presley è tornato sul suo pianeta? Penso di sì. Sì, lo scopriremo, ma dopo la pubblicità. A Reeducational Cast. Ecco, riscopritelo insieme a noi. Avete sentito la musica che abbiamo scelto? Cioè, bellissima questa canzoncina. Era in CC. In CC. Quindi? In questo caso CC non sta per Creative Commons, ma cazzo di cane. Esatto, abbiamo scelto proprio con questo, con questo criterio. Abibò, cazzo di cane. Non il lo pezzo so. Comunque era di Robin Gray dal titolo Looking for Distraction. Veramente un ganzo, sembra un fattone pazzo. Secondo me è un po' pazzo lo è. Sì, sì, sì. Comunque Robin ci stai dentro. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che potete chiaramente segnalare il fatto che non utilizziamo le canzoni di Robin e di altri artisti in Creative Commons dentro il nostro podcast, perché noi non lo facciamo mai. Segnalatelo. Non è vero, lo facciamo. Se vuoi, Robby, vieni qui che registriamo, abbiamo un pianoforte a coda. Tanto, per quello usiamo sempre artisti stranieri. Loro sono contenti, sì, che abbiamo usato la loro musichetta, sentono, sì, delle belle voci, però non sanno di che diavolo stiamo parlando. Awanagana, così capiscono. Ecco, io però se Robin ci sta ascoltando lo inviterei a venirci a trovare, appunto. Abbiamo il pianoforte, esatto, usiamolo. Così facciamo, tiriamo un po' l'audience. Tira giù. Scusate, ma a fianco al pianoforte vedo un amplificatore marchiato Marshall. Volete dire che qui dentro c'è il piano Marshall? Sì. Basta. L'ha fatto Mario. Scusa, cioè, aveva un che di, ho avuto un momento così. Dici che ci sarà bisogno di un nuovo piano Marshall? Io credo che qui abbandono, basta. Qui, cioè, io me ne vado. Abbiamo basta. Raggiunto la. Yeah. Guarda che siamo bravissimi noi. Vabbè, dai, parliamo di cose serie. Ci sono, ecco, le zanzare. Ma anche se è entrato nella porta sbagliata, esci. Dai. Allora, possiamo ritornare online? Parliamo di cose serie. Torniamo alle notizie. La tecnologia che avanza. No, che tecnologia che avanza? Questi cambi al vertice di Strowatch. Questi avvicendamenti. Sì. Allora, io oggi, visto che il bastardo di Distrowatch non è presente, Prenderai l'onore e l'onere di tenere l'angolo dei Distrowatch. Va ora in onda la rubrichetta di Distrowatch. Allora, oggi guardando sul sito, stranamente mi è capitato un link a Distrowatch. Non diciamo qual era il sito, comunque finiva per porn.com. Guardando, ecco, la musichetta era quella. Iniziava per B. E comunque, questo non lo sapevo davvero. No. Segno. Cerca, perché lo dovresti trovare. Cerca Google con Google. Okay. E comunque, stavamo dicendo, c'era un elenco di distribuzioni. Non ho capito se erano le più belle, le più brutte, le più utilizzate, perché era tutto in inglese e non riuscivo a tradurlo. Comunque, la prima era Mint, Mentaforte. Lei è un bell'uomo, sa? La seconda Cosa ridi? La seconda Bubuntu e la ventesima Gentoo. Ma Bubuntu, piano piano ce la facciamo. Le altre non pervenute. Bubuntu è tipo diretta discendente di Mortal Kombat, qualcosa del genere. Sì, cioè, ti do una bubuntata in testa. Dopo adesso, la Fatality e la Babality c'era la Bubuntu. Esatto. Va bene, ma la vera domanda è: cos'è che ha portato Mint in testa alla classifica su Distrowatch? Ma io penso che ci siano delle persone che dicono il falso dicendo che usano Mint invece di Ubuntu. Sì, certo. Oppure qualcuno non vuole usare Unity. Allora, nel frattempo è uscita la versione 12 di Mint, ricordi? Molto bella. Possiamo chiudere l'angolo? Chiudo. No, aspetta, una distribuzione. Vai. A caso, semplice. Vai. Distribuzione italiana. Vai. Basata su Debian Unstable. Che cacchio ha di semplice? Vabbè, Debian Unstable. Cioè, bello, mi è piaciuto il corretto, bravi. Ogni 6 minuti si blocca, come minimo. Ma vabbè, comunque, chiudo, eh. Ma come si chiama? Semplice. Ah, semplice. Semplice, è quello. Pensavo fosse semplice la distribuzione. No, semplice. Okay. Chiudo la porta. Va bene, grazie. Abbiamo chiuso l'angolo. Chiuso, basta. Ma allora, stavamo dicendo che è uscita la nuova Mint. La Mint. Mint. Mint 12, è una bellissima distribuzione. Diciamo che come cosa caratteristica ha il nome, che non mi ricordo, però adesso lo andremo a recuperare, perché noi adesso siamo estremamente tecnologici. Non so qual è il nome. No, c'ha un nome di tipo, mi pare. Come al solito. Chiamata di emergenza. Io non voglio chiamare l'emergenza. No, devi, ecco, così. Saranno anche tecnologici. Vai. Vai piano, perché quella va anche senza sim. Intanto che lui cerca il nome della nuova distribuzione Mint, la particolarità che Mint ha portato nella versione 12 è l'introduzione di GNOME 3 con dei plugin e delle aggiunte che chiamano Mgse, che non so come tu lo pronunceresti. Mgse. Ok. Bisogna assistenza. Cioè Mint GNOME Shell Extension, che praticamente rende il desktop di GNOME 3 più simile a quello di GNOME 2, mantenendo comunque GNOME Shell, in modo da far contenti quelli che si trovano un po' fuori casa, diciamo, fuori dal usando, core. Usando la nuova versione. Si trova male con Unity? Vabbè, tu ti sempre tornare su questa cosa. Non usa Unity, usa GNOME 3 puro con quella schifezza che mi ha installato Debian Testing, che non mi ci trovo più. Ma io mi trovo veramente da Dio, lo uso tutti i giorni, devo dire che è veramente molto bello. Voglio provare anche queste aggiunte che hanno scritto i ragazzi di Mint, perché sono interessanti. Tra l'altro su Arch Linux, la distribuzione che uso io, sono già disponibili tra i pacchetti in AUR, per cui lo proverò. Proviamolo. Si chiama Lisa. Lisa, lo sospettavo. Sì. Lisa dagli occhi blu. Sì, ma dopo la pubblicità. Su Reeducational. E qua potevamo far partire la musichetta, no? Cribbia. No, dico. Su Reeducational Cast. Scoprite qual è l'argomento di oggi. Scopritelo. Intrecciato coi Maya, col 2012, con gli alieni. Con John Lennon. Hai dimenticato Templari. E Ricky Martin. I Templari. Che era un Templare, chiaramente. Che musica mettiamo? Qualcosa di decente? Ma io direi di continuare sulla. No. Sulla scelta di prima. Dopo Rob. Da caso, di sicuro è meglio. Scopriamolo dopo Rob, perché questa sera Rob è qui. Ah sì? Oh, no, no, no. Con la sua macchina del tempo. Ma guarda che credo che ci porterà vivo, eh? Indietro di 10 minuti. Al brano di prima. No. Il loop. No. The Freak Fandango Orchestra. Freak e Frack. Saw me on the TV and it was love at first sight. You knew at once that I was the one for you. And then you wrote me this song and you sang it all day long. The song of yours and it goes, and it goes, and it goes like this. Singing it, dip, dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip, a dip. You call me by day. Stupid song of yours. That's why I hired a man to take care of you. About this jerk, yes he shot, yes he shot, he shot me instead. Singing it, da dip, da dip, da dip, da dip, da dip, da dip, da dip, da dip, da dip. Singing it, da dip, da dip, da dip, da dip, da dip, da dip, da dip. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, The Freak Fandango Orchestra. Freak qua gli accenti finiscono un po' a cazzo. Ma prima era Fandango Orchestra, adesso è orchestra. Adesso è Fandango Orchestra. Ti sa di dove sono? Forse sono dovrebbero essere americani. Fan, non lo so. And go. Fan and go. Ecco. Comunque bella la canzone. Molto meritava bella la un canzone dal titolo Hitman's Love Song, la canzone d'amore del cecchino. Vabbè, ma loro non lo sanno. E vabbè, ma il cecchino nel senso che colpisce al cuore. Pensavo che cecca. No, quello ci lecca al massimo. Attenzione. Comunque, definizione di Wikipedia per cecchino. Premessa: questa voce o sezione sull'argomento guerra non cita alcuna fonte o fonti presenti sono insufficienti. Cecchino. Un tiratore scelto o cecchino è un soldato addestrato ed equipaggiato per colpire con precisione bersagli molto distanti. In ambito militare, un tiratore scelto è fornito di un fucile ad alto potenziale con un mirino telescopico, fucile di precisione, che gli permette di identificare bersagli a distanza nell'ordine di svariate centinaia, se non migliaia di metri. La dotazione prevede spesso anche pistole. Meno male che è morto. Chissà come mai ci sono queste interferenze. Io comunque farei aggiungere una cosa dal nostro amico. Vorrei aggiungere solo una cosa. Che cosa? Allora, ve la siete cercata, eh? A questo punto sì, perché a questo punto deve essere stato veramente un seratone. Io me lo sono perso, mi è dispiaciuto. Il seratone... Quel seratone, quella lì, serata lì della Siete Cercata, sì, secondo me. Bruno Damiani live al sottotono. Bruno sotto, lo sa che siamo dei suoi fan accaniti. Lo chiamiamo tutte le sere. Siamo, esatto. Sì. Lo mettiamo in onda tutte le puntate. Lo dovremmo sentire, perché noi siamo più che sostenitori proprio delle ventole, dei fan, inteso, cioè proprio continuiamo a buttarlo fuori lì. Però potremmo intervistarlo un giorno l'altro. Sì, sì. Qualche sera lo chiamiamo, ce la chiamiamo a casa dalla mamma. Ce la cerchiamo proprio. Esatto. E non è facile. Non è facile. Fondamentalmente. Perché io penso facile. Che, insomma. Vabbè, complimenti a tutti i pianisti, perché non è facile. Bravo. Non è facile. Poi quando c'è vicino anche l'amplificatore Marshall. Volevamo parlare allora dell'argomento della serata. Sarà allora, avete indovinato, eh? Vediamo un po' di voi dalle prime file. Dai. Allora, ecco i capelli gialli. L'argomento della serata: un brano che tratta la tematica del pene e della vagina, che è un tema sempre attuale. Non è questo il tema, forse? No. Sembrava. No, tu con i capelli gialli anzi, vattene, vai, ci dovrebbe essere il gatto di là. Tu con i capelli gialli. Adesso passiamo alla. Te Shura, la Shura col trepiedi, sì, quella mi sembra intelligente. Sì, tu con i capelli gialli, se ti metti sopra un coso allora, luminoso taxi, grazie. Piacere, hai trovato un lavoro. Allora dopo aver fatto un sondaggione tra i partecipanti del gruppo Linux di Como, dove abbiamo chiesto qual era il programma open, free open preferito e perché, dopo aver ricevuto delle risposte da veri nerd, abbiamo deciso di fregarcene delle risposte e di scegliere noi un programma. Il programma in questione di cui abbiamo deciso di parlare questa sera. Si chiama Democrazia. Sì, Democrazia, la nostra democrazia. Nostra, non nostra. Vostra. Il programma è Xbox Media Center. Oh, ragazzi, Xbox Media Center, mica... Pizza e fichi. Ecco, mica i toast tagliati agli angoli. Adesso farei prima di tutto un piccolo sondaggio qui all'interno dello studio. Vorrei sapere quanti hanno usato Xbox Media Center. Ma da quando? Cioè, io mi ricordo che una volta... Mai. Vabbè, io sto alzando mani e piedi a posto di ascoltare te, insomma. Ok. Vabbè, io l'ho usato. Già, due su tre, già buone. Posso farla ancora più sbroffa? Certo. Su più piattaforme. Basta che non lo tiri fuori. Su più piattaforme. Perché? Perché Xbox Media Center Dove gira? Gira su più piattaforme. È un... Allora, innanzitutto diciamo che cos'è. Cos'è? È un programma open source ed è un media center. E fin qui, ecco, poi, è importante. Se no, aspetta, non che non si è scurito lo schermo. Fondamentalmente, è un programma open source nato principalmente sull'Xbox, come ci dice. Nacque il nome. Sulla prima Xbox. Esatto, serve fondamentalmente per gestire la collezione di video, audio, foto. Esatto. Come ogni media center, però ha delle funzionalità in più particolari, come ad esempio la presenza di plugin, che ci sono anche su altri media center, però qua ce ne sono veramente tanti. È diventato un po' il riferimento dei media center. Gira su più piattaforme, come mi chiedeva Coso. Gira Coso. Su Windows, su Mac, su Linux, su Xbox. Mac anche con architettura PowerPC, e gira anche su anche su Android. Apple TV. Gira anche Android. Gira anche su Apple TV. Su Xbox paradossalmente gira, però ormai non è più supportata. Non sono più supportate le nuove versioni da un po' di tempo a causa dei limiti dell'hardware. Chiaramente, ricordiamo che la prima Xbox disponeva di un processore Pentium 3 da 733 MHz, 64 MB di RAM, una resistenza da 8 GB. Io mi ricordo, cioè io questa settimana, visto che mi sentivo estremamente ignorante, ho semplicemente cercato sul www e ho scoperto che Xbox Media Center gestisce queste funzionalità dei file audio e video che io ignoravo, ovvero avere dentro dei dati e inserire a cacchio, per esempio, il titolo della canzone, del brano, dell'album o robe del genere. La cosa che ho scoperto è che Xbox Media Center è più intelligente di me, perché se trovo una cartella che si chiama in un modo e dentro i file iniziano tutti per questo modo e poi c'è attaccato qualcosa, lui ipotizza che questo modo sia l'autore, questo altro qualcosa è il titolo, quindi io ho pensato di sminchiarlo e mettere dei nomi a cacchio. E invece... Ha letto i tag dagli MP3 e li ha beccati tutti. Io no, ho capito, è interessante, tutto. È interessante la funzione che ha una volta connesso a internet, dove a questo punto si spalanca un mondo, dove Xbox Media Center è in grado di recuperare titoli, trame dei film, copertine, serie TV, tutte le... come si dice? tutti i riassunti delle serie TV che si hanno sull'hard disk, si riescono a tenere, a gestire molto bene tutte le varie stagioni delle serie TV che uno può avere comprato in DVD e aver messo sull'hard disk. Esatto. Ecco. E no, è un gran bel programma, e volendo si riesce anche a guardarci la TV usando dei programmi esterni. E ho visto che gestisce anche molti dispositivi remoti. Certamente, esistono programmi per smartphone vari per fare da telecomando. Esiste anche un'applicazione web che tu fai girare sullo stesso computer dove stai girando i Swast Media Center e ti presenta un'interfaccia web per telecomandarlo. Sì. Che bello. Chiaramente non stiamo a parlare della compatibilità con i formati, perché praticamente legge tutto. Sì, beh, sia audio che video, classici formati MPEG, immagini, 1, chiaro, 2, 3, 4. Non gli sparate dentro i RAW fatti con la Reflex, magari, che non è il caso, però legge davvero di tutto. È nato, come abbiamo detto prima, nel 2003 con la prima Xbox. È interessante perché già con quello scatolotto lì della Microsoft riusciva a portare plugin interessanti come ad esempio Rai TV, questo qualche anno dopo, come YouTube. Quindi già intorno al 2006-2007 avevamo la possibilità di avere un dispositivo, un media center interfacciato alla rete abbastanza completo. Molto bello il plugin di YouTube su Xbox Media Center, molto carino. No, io stavo vedendo invece questi plugin scritti in Python, per esempio per gli orari ferroviari. Può sempre servire. Sì, poi ci sono i plugin per le cose più incredibili. C'è anche il peer-to-peer, per rimanere comodi. Peer-to-peer, sul fatto che tu hai tutta una tua videoteca e non vuoi prendere il DVD e metterlo lì, dici: ma che facciamo? Ce l'ho. Faccio tutta sta fatica. Fammi usare un client BitTorrent, plugin BitTorrent. Ci sono plugin che fanno interfaccia a, non so, Transmission piuttosto che a. Sì, Media Portal. Sì, TV. Quell'altro programma per il download che adesso mi sfugge il nome. IRC. Per esempio, controllo dei mail. Ormai, ma IRC lo usa ancora qualcuno? Cioè, era un mito tempo fa. Certo. Sì. Certo. Io non lo so. Io non giusto la chat del Gellecomo. Non scarico più niente, guarda, una cosa su IRC. Non che io abbia mai scaricato in vita tua. No, mai. No. Anche quando. Stavo parlando di mutande pazze. E pensiamo ad esempio che pensate la mutande pazze. Pensiamo hai detto mutande. Pensiamo alla potenzialità di Xbox Media Center. Pensate che sulla prima Xbox, quando veniva installato, poteva essere installato come un programma a sé stante oppure come una dashboard. Mm-hmm. E non si limitava a questo, cioè come dashboard era in grado di gestire l'Xbox facendovi vedere video, immagini e anche facendo partire i giochi, nonché farvi giocare in rete su una rete alternativa all'Xbox Live, che a suo tempo era l'X-Link Kai. Definizione da Wikipedia: mutande pazze. Mutande pazze è un film italiano del 1992 diretto da Roberto D'Agostino, alla sua prima apparizione come regista. Il film fa un'evidente satira sul mondo dello spettacolo e sull'arrivismo, caratterizza molte delle persone che ne fanno parte. Comunque stavo pensando, sì, già queste mi sembrava sono cose brutte, quando uno pensa, poi esce fuori una mutanda pazza così, insomma. No, comunque deve essere un bel programmino, quasi bel programmino. A proposito di provarlo, potete provarlo in una versione live, direttamente da un CD masterizzato. La versione live solitamente si basa su una distribuzione Linux, ma la trovo dal marocchino super minimale. No, perché è gratuita, quindi non è roba contraffatta, mi dispiace. Cacchio. E poi potete anche caricare potete chiaramente caricarlo su un CD-ROM, su un DVD oppure su una chiavetta, e ci sono più distribuzioni che lo supportano. Mi sembra che l'ultima volta che l'ho provato aveva una Xubuntu praticamente come distribuzione di base, che stava dietro all'Xbox per il live. È chiaro, così vi potete fare un'idea, però chiaramente col fatto che comunque è un programma a sé stante, se avete un PC su cui installarlo, installatelo. È meglio anche avere un PC di una certa caratura, diciamo, perché soprattutto volendo usare queste interfacce molto animate con un sacco di effetti, conviene avere un PC carrozzato. Se poi si vogliono vedere film in HD o video comunque in alta definizione, un po' di carrozzeria ci vuole. Sì, anche perché sì, effettivamente avere di base sotto l'Xbox Media Center non è proprio leggerissimo. No, però si è voluto con l'evolversi dei PC. Però tranquilli, se avete un Core 2 Duo, che è un PC di 4 anni fa, 5 anni fa, si legge tutto. Ecco, magari conviene avere qualche driver che supporta l'accelerazione della decodifica dei video, roba sì, del genere. GPU. Esatto. Bene, detto questo, possiamo tornare al sui con nostri questo passi. Cosa volevo dire? Non lo so, però c'ho ragione. Più o meno abbiamo detto chiaramente. Io poi ce l'avevo installato su un Arch Linux comunque. Ah. Xbox Media Center. Sì, io ce l'avevo installato anche da Debian. Io ce l'avevo installato su Ubuntu, ce l'avevo installato sulla prima Xbox, che ce l'ho ancora lì bella, e la uso come raccoglipolvere. E sempre un raccoglipolvere. Però devo dire che era veramente tanta roba a suo tempo, avere quella roba lì, insomma. E poi dove altro l'ho messo? Sì, poi l'avevo messo su Live e ancora su Architettura Power. PC. Su un OS X, un ma io allora G4, quasi addirittura. Io domani la provo allora. Sì. La provo sul mio nuovo AMD FX Dozer. Scusa. Penso che siamo arrivati alla sezione hardware. Perché o ferramenta per gli amici. Quando uno non sa cosa fare, è giusto che si metta a cercare il processore più potente che esiste al mondo, con più core al mondissimo. Giusto. Lo vuoi mettere come deve dire? Estremamente di larga scala, a basso prezzo, perché sennò non va bene. Sì. Non lo so. Sono uscite, girando sul www, sono uscite delle recensioni che dicono: buh, AMD ha fatto un'altra cavolata, ma perché si è sparata gli 8 core quando ancora non riesce a star dietro a Intel, di qua di là, buh. Allora, incuriosito, sempre Ubuntu? No, peggio. Allora, incuriosito, mi sono andato a leggere qualcosina e diciamo che i benchmark che ci sono in giro utilizzano piattaforma quella lì. Sentiamo. Vabbè, non pervenuta. Wash. E abbiamo scoperto che è un cane pulito quando abbaiano così e wash, quella cosa wash. Lì, quella roba lì, non è ottimizzata per questi nuovi processori e non sa cosa farsene, per cui è normale che non riesca ad andare. Allora abbiamo deciso, mettendoci i nostri soldi, grazie ditta, comunque, di prendere un AMD FX. Entrerò in scena una ditta? Sì. Questa era una tutta citazione. Comunque, di prendere un bel processore FX, ho preso un 6 core, tanto dovrebbe bastare, no, perché l'8 core ancora non c'era nel negozio di fiducia, e vediamo di mettergli su una bella Gentoo, di fare compilare qualcosa, vediamo un po' come gira, perché ma è qualcosa di caratteristico. E ma quindi cosa... Allora, ve lo dico subito. Allora, sì. Processori FX Bulldozer, 4, 6 o 8 core, frequenza dai 2 giga e 8 arriva fino a un massimo di 4 giga e 3 in modalità turbo core al massimo. E sti cazzi. E sti par di cifoli. Ma la cosa strana di questo processore è che è un misto fra un insieme di dual core e un single core proprio di quelli cattivi. Perché alcuni componenti sono in comune fra coppie di core, mentre altri sono proprio indipendenti. Ah. È una cosa veramente strana, una cosa ambigua. Ma c'è anche per i salacarta? Credo di sì. Ma secondo te la sa veramente o la sta inventando? La so, l'ho letta, virgola, la so. E la cosa bella è che in automatico... Allora, prima cosa, le frequenze dei vari core sono indipendenti, per cui ci possono essere 7 core con un dito nel naso e uno che lavora a garganelle proprio. E in più c'è un sistema automatico che gestisce il turbo, quindi la possibilità di far andare, di overclockare alcuni core o tutti i core in base al carico di lavoro, e in automatico lui calcola quanto calore produce per evitare che questo calore sia superiore ai 125 watt massimi. Quante ne sanno da ma che ne sanno di da brutto. AMD veramente, cioè io... Però su Kizots lì non funziona. Strano. Hanno intenzione di portare avanti una piattaforma come hanno fatto fino adesso, non ha VGA integrate, robe strane, vero? Ma allora dovrebbe come avere i Sandy. Ha il controller di memoria, NordBridge, quello sì. Però arriva come controller di memoria a memoria da 1833 MHz. Però. Per cui diciamo bella roba. Sì. Tutto il resto, vabbè, solite menate, noia. Bla bla bla bla, andatevela a leggere. Come sempre. Interessa. La cosa bella è, vediamo, consumo dai 10 watt, che non è male, fino ai 125. Flessibile, che non è male. Che non è male, però per avere 6 core, ecco. E 6, 8 core. 6 core. E la modalità hardcore come si attiva? Hardcore, hardcore. Ricordati che il processore è un pezzo core. Un pezzo, non era esattamente decore, però è lo stesso. Ma il Sandy Bridge FX? Esatto. Conosce gli alieni? Sì, li conosce tutti. Conosce la data del 21-12-2012? E come mai la conosce? Sarà mica... Non pervenuto. Un amico di... Un templare? Cignola Cinguetti? Gignola? Cignola Cinguetti. Sa cosa è successo al signor Frangipetti? Frangipetti è morto. Cignola? Cignola? Cignola Cinguetti. Lei ha conosciuto John Lennon? Ragazzi, direi che a questo punto no, potremmo sfumare su questa... Sfumiamo... Ancora a fumare? Cioè non ti basta quello che ci siamo fumati Scusa, prima? Hai ragione, ho sbagliato parola. Non ho capito io. Shine on your crazy diamond. L'hanno fatta davvero i Pink Floyd? O Lucy in the Sky with Diamonds è un Lose messaggio satanico. Try. No, beh, senta, lei non signori, può signori, entra in scena in questo momento, a 12 secondi prima della chiusura della puntata di Opencast, l'esperto di DistroWatch, che si trova oramai senza lavoro perché è stato sostituito. Vieni a fare un saluto al mio microfono. Ciao tuo microfono. Bravo. Proprio quello che devi fare. Si vede che è uno che bazzica da queste parti. Dei rimbombamenti. Salutami. Ti ha salutato. E lui ha fumato da solo però, perché non c'era prima con noi. Vero? No, ma è così di natura anche lui. Era spento. Va bene, direi che con l'ingresso del nostro amico, così a sorpresa, abbiamo raggiunto il minutaggio. Gli facciamo dire almeno qualcosa. La domanda di settimana prossima. Giusto. Allora, la puntata precedente abbiamo fatto un quiz di cui non ci ricordiamo minimamente la domanda, e siccome nessuno ha partecipato finora che io sappia, no. Per cui io lo darei come non vinto. Come non vinto? Non vinto. Ha vinto Loris. No, Loris ha vinto quello prima ancora. Mitico! Bravo. Per cui a questo punto ci vuole il concorso per la settimana prossima. Attenzione. Vi ricordiamo che potete lasciare commenti alla puntata e le risposte a questo quesito che fra poco vi verrà fatto sulla pagina di questa puntata di Opencast sul sito del Gelecomo www.gl-como.it, dove troverete anche tutti i link alle notizie, alle minchiate che abbiamo detto e anche a tutta la musica che abbiamo passato, che vi ricordo è stata... Ah sì, così. È stata trovata... A cazzo di cane su Giamendo, insieme ad tanta altra musica in CC, alcuna a cazzo di cane, altra in Creative Commons. E quindi niente, ascoltiamo la domanda del nostro esperto di DistroWatch e voi rispondete e vincerete un simpatico omaggio direttamente da noi organizzatori del GL Como. Simpatico omaggio. Vai con la domanda. Allora, la domanda è su quale occhio portava la benda Capitan Harlock? Mi sembra una gran domanda. E quindi cos'è sta roba? Un momento fusion, ma non lo voglio sapere. Cos'è sta roba? Guarda che per chi non vede potrebbe sembrare un film un po' così. Mutande pazze. Eccolo qua. E su questo io, ragazzi, direi che proprio ci abbiamo dato. Che cacchio stai facendo? Sto giocando. Non posso giocare? Avete ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del GL Como. Tutti i link e le puntate su www.gl-como.it. Quindi però con la storia del carburatore come facciamo? Lascia stare il carburatore. Vabbè, ho capito però. No, non pompa si benzina. Può. Non si può. Poi c'ho problemi di ammortizzatore anche. Fa male le ginocchia. Sullo scooter? No, sulla moto. Ma no, non è vero in realtà. Però poi ti faccio sapere. Hai già stoppato, Fabio, voglio ben sperare. Ah no? Ecco. Dai, allora andiamo o no? Ciao. Ciao a tutti. Bella.